La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera e benvenuti alla prima volta. Apriamo questa puntata facendovi ascoltare un estratto di un film di cui parleremo tra poco. Please, fast, your position, please, your position. 33, yes. 5-1. And then under. Okay, AC-52. We have small children, please, can you have a break? Okay, how many people on board? I think it's about 150 people. 100? What kind of boat? It's between 130 to 160. Okay. And we have most of them is women and kids. Dove siete? Quanti siete? Chiede la guardia costiera. La donna risponde che ci sono dei bambini e ci sono 150 persone a bordo. La voce, come avete sentito, è molto spaventata. È un estratto questo di Fuoco a mare di Rosy, il documentario vincitore dell'Orso d'Oro 2016, che racconta chi arriva a Lampedusa. Una storia simile a tante, una storia che però nessuno conosce fino in fondo, perché per farlo bisognerebbe vivere tutto quello che chi fugge ha vissuto. Un tentativo in questo senso, doloroso e anche molto pericoloso, lo ha fatto Livio Senigalliesi, inviato di guerra italiano, 60 anni, milanese, che per oltre un mese ha camminato coi migranti percorrendo l'intera rotta balcanica. Un lavoro autoprodotto, sostenuto da chi ha scelto di voler vedere dentro questa storia, e quello che si incontra, come dirà Livio, è l'inferno. Una storia che finisce nell'ex campo di Idomeni, ma che di fatto non è ancora finita. Una prima volta che si ripete giorno dopo giorno sulla pelle di troppe persone. E allora diamo la parola a Livio Senigalliesi. Che fuoco amaro questa sera, amore, amore, non ci pensare. Poi peggio e... peraltro anche il meglio della natura umana. Devo dire che queste persone, al momento in cui sbarcano, non sono più persone, ma sono come dei pezzi, come dicevano i tedeschi ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, degli Stuck, dei numeri per statistiche, quindi non hanno più nessun diritto, i confini sono chiusi, non possono andare da nessuna parte e tirano a campare la giornata come possono, quindi con tutti i mezzi anche più precari e più tristi, più dannosi, che fanno parte della natura dell'uomo, quindi per cui dobbiamo tener conto dei più vulnerabili, sono i minori, i disabili, le donne che come al solito vengono violentate, vengono usate. In più ci sono anche altri fatti che io mi sento di denunciare, colgo l'occasione di questa intervista perché ho saputo anche specialmente in Macedonia che vengono rapiti gruppi di profughi e torturati per averne maggior profitto, cioè spolpati fino all'osso. Ma da chi? Dai trafficanti, per loro una persona è un bancomat, no? Un profugo è un bancomat, quindi cioè loro si fanno magari pagare illudendoli di portarli in Serbia perché la rotta è tutta spezzettata, e allora più si rende difficile il viaggio e più le mafie governano questo traffico. E in più ci sono dei malviventi, io ho scritto su molti post sul mio profilo Facebook in cui si dice, cioè chi una volta, non so, trafficava droga o rubava i portafogli ai turisti, adesso ha un bel business di gran lunga più... più remunerativo, di conseguenza queste persone, allora gli chiedi 1000 euro per arrivare in Serbia passando poi 1000 pericoli attraverso boschi, attraverso controlli polizieschi, c'è di tutto, cioè è una rotta terribile, non è mai stata raccontata abbastanza, perché come abbiamo fatto noi entrare inside the Balkan route è molto rischioso, ma richiede anche tempo e bisogna sapersi muovere su un terreno molto difficile. Andare domeni ci vanno tutti, e questo trasferimento forzato dei profughi è già in corso da mesi. Io ai tempi ero stato anche al Pireo e una mattina c'erano 6.000 profughi al porto, sono stati presi dalle forze antisommossa e caricati a forza su dei pullman che li portavano in posti che sconosciuti, cioè in campi molto remoti, difficili da raggiungere o comunque diciamo divisi gli uni dagli altri in modo che non si crei anche, come dire, uno zoccolo duro che lotta per i suoi diritti. C'era una specie di consiglio della democrazia, la chiamavano ai domeni, che era formato da persone che cercavano insomma di portare avanti una battaglia insieme ai volontari internazionali per denunciare le violazioni e per lottare per i propri diritti. Loro vogliono anche chiedere asilo politico, ma non gli viene data nessuna possibilità. Certamente non vogliono tornare in Turchia, certamente sono contro gli accordi Europa e Turchia e non vogliono rimanere in Grecia, perché tutti sanno che la Grecia è un paese povero che non può dare loro delle speranze. Loro vogliono continuare la rotta, ma sappiamo che le decisioni vengono prese altrove, sulla loro pelle. Il tuo lavoro invece, tu stai realizzando un documentario, cioè adesso il lavoro diciamo di presa, di ripresa l'hai finito, stai lavorando, sì, al montaggio? Sì, esatto, e con il mio amico Denis Vorobyov, che è un bravo film director, abbiamo fatto un ampio lavoro di documentazione. Io mi sono occupato del lavoro giornalistico, della scrittura, della raccolta delle storie e delle fotografie, che è il mio mestiere. Però credo che diciamo, secondo i dettami in uso da quando c'è l'era tecnologica, bisogna riprendere il più possibile con ogni mezzo, usare il web, creare dei blog, e anche tutte le cose che ho scritto sono state molto, molto seguite, perché tutti mi dicevano le storie che scrivi tu non arrivano, cioè sono molto rare, nel senso che vengono dall'interno, non sono quelle che leggiamo sul giornale, sì, non perché sono quelle che vediamo la TV, per cui bisogna spendere passione, tempo. Io poi da più di 20 anni che mi occupo di migrazioni, per cui sono estremamente, cioè, voglio dire, motivato, no? Per quello che credo che la rotta balcanica abbia messo anche in luce le deficienze dell'Europa. E poi volevo farti alcune domande, una in particolare su come hai fatto, cioè, perché tu sei un freelance, quindi come hai fatto, sì, a sostenere un lavoro? Quanto è durato questo lavoro? È durato un mese. Quindi un mese di viaggi, un mese di riprese, cioè è un costo, sì, un costo molto alto. Tu come fai a sostenerti? Cioè, ma devo dire che intanto ho lanciato una specie di crowdfunding fra i miei followers, e molti amici mi hanno sostenuto, ci hanno sostenuto. Devo dire che del resto il segreto sta nell'organizzare bene un viaggio del genere, e io ci ho lavorato prima di partire per un paio di mesi, in modo che tutto poi dopo funzionasse a puntino, cioè che noi arrivavamo all'aeroporto e sapevamo già chi incontrare, dove andare, eccetera eccetera eccetera, oppure quale nave prendere, dove a chi rivolgerci, cioè, quindi è una questione che va ben organizzata per poter anche sia trovare le storie giuste, perché le storie sono lì che ti aspettano, cioè, storie ce ne sono migliaia, però anche trovare delle storie particolari richiede fiuto oppure richiede contatti, e quindi ho anche collaborato molto con MSF, che sono estremamente attivi lungo tutta la rotta balcanica e che sono anche una fonte, voglio dire, importante dal punto di vista logistico, perché loro fanno un lavoro straordinario dal punto di vista medico, ma vanno anche oltre, perché ci sono dei luoghi poco visti, poco visitati, si possono vedere alcune foto sul mio sito, per esempio del confine fra la Serbia e l'Ungheria, che è un posto terribile, in cui non ci vanno giornalisti, e però grazie per esempio alle cliniche mobili di MSF si porta anche di notte nella casa di nessuno l'aiuto medico, si distribuiscono le coperte, un po' di cibo, si va ben oltre il cerotto sul piede ferito, ecco. E poi Livio, in qualche modo quello che tu hai raccontato anche poco fa durante questa intervista, cioè il tuo è un lavoro che in qualche modo, come dice la gente, riconosce e abbatte anche lo stereotipo del racconto della migrazione, perché ormai essendo tutti andati nello stesso posto per pochi giorni, le stesse notizie sembravano tutte uguali, che forse è la peggior cosa in questo... D'altronde ormai sono anni che il nostro lavoro è limitato al mordi e fuggi, no? Cioè alla superficialità, forse si vuole anche che sia così, perché cioè, siamo anche noi un po' responsabili di tutto quello che accade. Quindi io vado anche nelle scuole per raccontare la vera storia dei profughi. Queste migrazioni forzate sono anche legate a delle violenze che loro subiscono già nei loro paesi di provenienza. Ci sono guerre, ci sono dittature, ci sono violenze di ogni tipo, ci sono mancanze di diritti umani, mancanze di rispetto nei confronti di una donna. Io mi ricordo in un campo profughi a Belgrado ho conosciuto una ragazza somala di 18 anni, Hana, che mi diceva: io ho 18 anni, voglio vivere come una ragazza di Londra o di Berlino, ho delle passioni, voglio studiare e nel mio paese c'è solo guerra, quindi la mia lotta è quella di raggiungere l'Occidente per poter fare la vita di un giovane come tutti gli altri, no? Cioè sono anche delle cose belle, semplici e anche giuste, no? Però poi sappiamo quanti problemi si frappongono a tutto questo, cioè il passare i confini magari significa anche prostituirsi. La politica è la prima ad essere corrotta, perché tutti dicono, tutti i profughi che ho intervistato dicono che ci sono gruppi di poliziotti corrotti, specialmente in Bulgaria, ma anche in Macedonia, che sottopongono i profughi a qualsiasi violenza, li incarcerano, poi chiedono il riscatto alle famiglie nei paesi lontani, cioè se ne sentono di tutti i colori, solo che sono cose scomode. Entrare inside the Balkan Route significa entrare in una specie di inferno che diciamo i più non vogliono sapere, perché rimangono sconvolti. Io ho incontrato le persone che sono state torturate e marchiate a fuoco. Cioè, capite a che punto arriva la violenza? Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Di nuovo insieme per raccontare una pagina di storia, una realtà che migliaia di persone stanno vivendo, hanno vissuto. I protagonisti sono gli uomini che Livio Senigalliesi, fotoreporter, ha raccontato attraverso un lavoro lungo, un viaggio sulla rotta balcanica percorsa dai migranti. C'è una totale lontananza, una totale freddezza, come anche io ho cercato anche di denunciare a più livelli questa cosa delle torture, che cioè, mi sembra veramente il massimo, e non è stata accolta, non è proprio stata accolta, sono state rimbalzate le mie denunce, ho provato anche a rivolgermi a delle organizzazioni che si occupano di queste cose e fino adesso non è che mi abbiano dato molto ascolto. Si rimane su una crosta superficiale che fa comodo a tutti, perché probabilmente la corruzione arriva talmente in alto che tutto è sotto controllo. Ti dico solo questo. Quindi è proprio un giro d'affari talmente grosso, c'è talmente tanto interesse su questo, sì, su questo tema, che alla fine è solo quello che insomma va tutelato. Certo, certo, certo. E sicuramente si apriranno altre rotte. Io infatti adesso stiamo per montare il nostro documentario, che sarà un documentario molto forte, fatto di storie umane, di quelle persone che hanno un nome, un cognome. Bisogna riconoscere l'umanità di queste persone, cioè sentirli il più possibile simili a noi per poter avere quell'empatia che serve anche ad indignarsi. Se io penso che io ho dei figli, cioè non smetto di indignarmi, perché i bambini, anche i più vulnerabili, anche i minori non accompagnati che arrivano dall'Afghanistan, che ne passano già di tutti i colori, dovrebbero essere accolti in un'altra maniera. I nuovi centri dove verranno portati dal governo greco sono centri non di accoglienza, ma sono centri di detenzione dal quale non escono. Cioè non è che c'è una pratica che uno dice ti diamo 18 mesi per l'accoglienza dello status giuridico. No, cioè adesso li parcheggiano lì e questi qua non sanno quando usciranno. Mi sembra che stiamo andando oltre qualsiasi diritto negato, cioè per quello che forse, ecco, la presenza dei volontari è stata una cosa molto molto importante, perché comunque sono stati insieme ai pochi giornalisti e fotografi che si sono impegnati a lungo su questa rotta, però i volontari internazionali sono stati quelli che hanno risolto un po' i problemi, perché quelle che sono venute a mancare sono state le grandi organizzazioni, quante ONG che in altri luoghi di guerra che ho frequentato erano molto presenti ed attive, hanno lasciato questa gente completamente alla mercé della fame, della sete e delle malattie. L'unica organizzazione che io ho visto estremamente concreta, presente e veramente che abbia anche preso una posizione politica di denuncia è stata Medici Senza Frontiere, per cui lo dico così senza ritegno, cioè è mancato tutto il supporto umanitario, perché questa è una crisi che continuerà negli anni, e quindi anche il mio progetto è un progetto di lavoro, ma è anche un progetto serio di documentazione, perché nessuno possa dire un giorno non è vero, non è successo niente, oppure c'è gente che sparisce nel nulla, per cui cioè, loro hanno la nostra stessa dignità, e quindi dovremmo pensare che forse un giorno potrebbe anche succedere a noi. Una professoressa di inglese dell'Università di Damasco, una donna di una molto, molto, come dire, anche altera, affascinante, no? Così, cioè piena di sé, no? Cioè che a un certo punto è crollata a piangere, perché dice io mi faccio schifo, e 40 giorni che non faccio una doccia, credo che questo sia disumano. Cioè, per cui cioè, si potrebbe parlare di tanti aspetti, no? Cioè, che ti fanno sentire veramente male in un contesto del genere, oltre a non avere un domani, no? Perché loro tutto questo l'hanno fatto per costruirsi un futuro, raggiungere un luogo di pace, dover ricostruire le loro storie, le loro famiglie. Io poi ho visto anche separare le famiglie in una maniera brutale dalla polizia, cioè nel senso che fanno passare una mamma con il bambino più piccolo, ma queste famiglie allargate generalmente viaggiano con il nonno in carrozzina, lo zio con le stampelle, 10 bambini, magari 3 mogli, eccetera, eccetera, fanno passare una moglie con un bambino e tutti gli altri restano nella terra di nessuno. Questa donna viene portata in un centro detentivo che perde totalmente il contatto con la famiglia. Cioè, dimmi te se non sono cose che fanno pensare ad altri tempi. Questo è successo in Ungheria, al confine con l'Ungheria. Quella di oggi è una prima volta che racconta una parte di storia contemporanea fatta di singoli che fuggono e fuggendo diventano moltitudine, storie di dolore ma anche di incredibile speranza, storie finite nel peggior modo possibile e storie che proprio mentre vi parliamo ricominciano, prime volte quasi impossibili da raccontare al fianco di prime volte che non finiresti mai di ascoltare per quanto belle. La puntata termina qui. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook o sul sito di Radio 24. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Siamo macchine che non osano andare più avanti, siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni e continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passerà saranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo